No alla riproposizione della pista palestinese e all'audizione di Carlos, il terrorista Illich Ramirez Sanchez, al momento detenuto in Francia. Sono due delle decisioni prese dalla Corte d'Assise presieduta da Michele Leoni a conclusione della seconda udienza nel processo Gilberto Cavallini, l'ex neofascista accusato di concorso nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Sì invece ai testi dei pubblici ministeri e delle parti civili, con l'esclusione dei neri Fabrizio Zani e Roberto Fiore, l'attuale leader di Forza Nuova. Partendo dalla cosiddetta pista palestinese, l'indagine, che è stata archiviata nel 2015, è stata esaustiva, ha detto il presidente Leoni, dando lettura alla sua ordinanza. Un'indagine che non ha trascurato nulla e che per questo non porta a elementi ulteriori, comprese le presunte conoscenze del venezuelano Carlos, già condannato all'ergastolo sotto processo d'appello per un attentato avvenuto a Parigi nel 1974. Sulla sua presenza avevano insistito i legali della difesa di Cavallini, gli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini. Il motivo era che Carlos, militante palestinese, aveva detto di avere informazioni sul massacro di Bologna, ma aveva aggiunto di temere per la propria incolumità, dunque chiedeva di essere sentito in sicurezza in Italia. E a questo proposito ha commentato l'avvocato Bordoni: la pista palestinese l'avevo bocciata anche io, ma valeva la pena di sentire il capo del terrorismo internazionale. E secca è giunta la risposta di Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime. La Corte d'Assise ha deciso di non perdere altro tempo. Soddisfatto l'avvocato di parte civile Andrea Speranzoni per l'ampio accoglimento della propria lista testi. Partiamo dagli esclusi. Oltre a Zani e a Fiore non saranno sentiti i feriti e i familiari dei deceduti nell'attentato del 2 agosto 80, ma per loro parleranno le perizie medico-legali e certificati sanitari, ha detto Speranzoni. Per il resto ci concentreremo su conoscenze acquisite negli ultimi 15 anni anche in altri procedimenti. Insomma, c'è attesa per la lista dei testimoni ammessi. Tra questi ci sono i tre condannati in via definitiva per la strage alla stazione di Bologna: Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Ma tra i testi c'è anche un personaggio molto rilevante. Si tratta di uno dei vertici di Ordine Nuovo, il medico veneto Carlo Maria Maggi, condannato in via definitiva il 20 giugno 2017 per la strage di Brescia, quella avvenuta in Piazza della Loggia il 28 maggio 1974. E sì, poi della Corte anche all'acquisizione dei verbali sottoscritti dai neofascisti Sergio Calore e Carlo De Giglio. Quest'ultimo è il pentito nero che consentì di istruire l'ultimo processo per la strage di Piazza Fontana del 69, quella che nel 2005 ha portato al riconoscimento incontrovertibile delle responsabilità degli ordinovisti Franco Freda e Giovanni Ventura, che tuttavia non sono più processabili per questo attentato, dato che erano stati già assolti in procedimenti precedenti. Entrambi sono morti, sia Calore che Di Giglio. Di Giglio era malato da tempo e morì il 12 dicembre 2005 per cause naturali, mentre Sergio Calore è stato ucciso il 6 ottobre 2010 con 30 picconate alla gola recisa, senza che oggi ci sia un colpevole. È morto anche il terzo personaggio di cui sono stati ammessi i verbali. Si tratta di Massimo Sparti, un pregiudicato romano con simpatie neonaziste vicino ai NAR, che accusò Mambro e Fioravanti di avergli chiesto documenti falsi nei giorni successivi al 2 agosto 1980. Al momento però si inizia con i testi dei pubblici ministeri. Mercoledì prossimo, 11 aprile, deporranno il dirigente della Digos di Bologna, Antonio Marotta, e il maggiore Goffredo Rossi dei Carabinieri del ROS. Sono loro infatti che hanno condotto le indagini dopo la seconda iscrizione nel registro degli indagati di Gilberto Cavallini, la cui posizione per la strage di Bologna era stata archiviata una prima volta nel 2008 e poi è tornata al centro delle indagini a fine 2014 con un esposto dell'associazione dei familiari delle vittime.